Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Invece di impedire le 5 sostituzioni, eccetera, perché non avere squadre con rosa di 22 elementi al massimo e congelarli tipo mondiali? Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Galabinov che è completamente libero, Galabinov contro Musso, Galabinov la chiude la Spezia. Sappiamo di tutte le difficoltà che ci sono e venire qua e vincere la prima partita storica per lo Spezia per noi è grande soddisfazione. Bastos, Malinowski, taglia per il Papo Gomez, uno contro uno, Gomez! Non ci credo. Che gol di Gomez! All'incrocio dei pali opposto, ma che gol di Gomez! 4-1 Atalanta! Se mi chiedi oggi noi possiamo giocare per lo scudetto, ti dico di no. Spero che se me lo chiedi tra 20 giornate di poterti dire di sì, però il punto è questo. Lautaro, zona tiro, vuole caricare il destro, la prova! E allora anche Lautaro partecipa alla festa dell'Inter. 5-1, Lautaro Martinez. Il fatto di aver cambiato 7 elementi e che si sia vista l'Inter lo stesso nonostante i cambi, chi gioca comunque segue uno spartito, già mi immagino se poco poco non avessimo vinto oggi, Conte cambia 7 elementi. A chi sarà dedicato il retweet di oggi di Pierluigi Pardo? È un retweet. Retweet? No, vabbè, lo cambio. Oh, fai quello che vuoi. Volevo fare un retweet per dedicare Inter Atalanta, perché è un po' quello che c'era anche la Lazio in realtà nel radio tweet, credo di lunedì, sul fatto che ho sempre di più la sensazione che sarà un campionato equilibrato, un campionato aperto, un campionato con più contendibile rispetto al passato. Però poi alla fine bisogna andare sulle grandi storie, e la grande storia è quella dello Spezia, perché quando una squadra vince per la prima volta una partita in Serie A è un pezzo, è come se un pezzo della storia di questo campionato comunque mitico in tutta la sua storia si allargasse, no? Si aprisse, è come se la comunità della Serie A si aprisse a un'altra grande, nuova, bella città, e quindi insomma lo dedichiamo allo Spezia, poi tanto del resto parliamo per tutto il tempo. Molto bello, amico mio. Ciao Massimo Mauro, buongiorno. Ciao Carlo. Ciao Max. Senti, complimenti per il tweet, Pier. Vabbè. Pardo è bravissimo quel tweet. Allora fammi fare un tweet anche a me. Vai. Complimenti al Catanzaro che ha passato il turno in Coppa Italia. Siccome non ho mai occasione di parlare della squadra per cui tifo, vi chiedo scusa, ma volevo fare scusa? Fai bene. Che ha passato il turno di Coppa Italia. Senti, io ti voglio far sentire un WhatsApp. Che allora l'altro giorno parlavamo di figurine del libro sulla storia della Panini del mio amico Leo Turrini, eccetera. Ci sono arrivati un sacco di messaggi, tra cui questo, stai a sentire. Sono Alessandro di Padova. Sto in un paese appena fuori Padova che si chiama Rubano, e ancora oggi la figurina di Massimo Mauro con la maglia della Juventus del 1983 credo è attaccata sulla traversa della porta del campo di allenamento, naturalmente senza reti, perché del campo di allenamento della C Rubano. Hai capito, Massimo? E quelli sono i campi che contano. Finché ci saranno quei campi, ci saranno giocatori per di grande livello, diciamo, no? Il bacino di utenza, quelli sono i campi giusti. E c'è ancora la tua figurina attaccata alla traversa. 1985 però, non 83. T'ha invecchiato di qualche anno. Ho visto una foto, che non è una figurina, ma è una foto di Massimo Mauro con Andrea Pirlo l'altra mattina, non so quando l'avete fatta questa cosa, sì. Che insomma, la cosa è giusto parlarne, perché poi è utile, perché l'informazione è fondamentale nel vincere queste grandi sfide, perché fa onore a Pirlo ed è una battaglia di tutti, ovviamente, sì. Non soltanto di chi ti fa Juve, ma anche di chi ti fa per tutte le altre squadre. Massimo, tu sei impegnato, vai, vai. No, sono stati 107.000 euro donati da Andrea dopo la sua, con il ricavato della partita dell'addio a calcio che ha fatto, e li abbiamo donati attraverso la fondazione mia di Gianluca Vialli al centro Nemo, che è un centro che si occupa di cura e ricerca sulle malattie neurodegenerative, in primis la SLA. Quindi complimenti ad Andrea Pirlo. Sì, e anche a te e a Gianluca, naturalmente. Questo a monte, tienici aggiornati ogni volta. E anche a tutti quelli che hanno contribuito. Vabbè, perché chiaro. Poi i grandi personaggi, è giusto che venga sottolineata questa cosa, perché molto spesso il mondo del calcio superficialmente viene definito un mondo che vive nella sua bolla, ecco. Molto di moda questa parola, che vive in maniera insensibile, invece non è assolutamente così, e ci sono decine di esempi ogni anno che questo non succede. Poi però chiaramente c'è la gente che contribuisce di tutte le squadre del mondo, e fa una cosa importante. Tutti quelli che sono andati a vedere la partita di Andrea a San Siro c'erano, se non ricordo male, 50.000 persone, quindi sono stati quelli che hanno donato. E io rosicavo perché ero in diretta e quindi volevo andare anch'io, ma era un lunedì sera e quindi, vabbè. Quindi avevi da fare. Allora ragazzi, molto più prosaicamente, notizia dell'ultima ora, rinviata Genoa-Torino, che era in programma sabato, decisione che è stata finalmente presa e di totale buonsenso. Ne parliamo dopo o lo facciamo subito, Massimo? No, giusto. Per fortuna il Napoli è rimasto, diciamo, indenne da quella partita. Speriamo che continui ad esserlo, così il campionato può andare avanti. Sì, e deve andare avanti, l'ha detto anche il vice ministro Sileri questa mattina. Insomma, non ci sono dubbi su questo. Si tratta di definire, e verrà fatto dalla Lega, dove prima o poi, insomma, litigano anche sul colore delle biro che usano, quindi ieri non è stata presa una decisione in questo senso, ma con ogni probabilità si va verso quella soglia dei 13 disponibili, un portiere compreso, che viene adottata a livello di UEFA. Invece, per quanto abbiamo visto ieri sera, parliamo di moda. Mi sembra che il nerazzurro sia il colore dell'autunno-inverno, cosa dici? Beh, ci sono tanti gol da parte dell'Inter, tanti gol da parte dell'Atalanta. Io spero che Piero abbia ragione, che sarà un campionato equilibrato, e quindi vedremo l'Atalanta grande protagonista. La battuta di Gasperini è straordinaria, ti rispondo tra 20 giornate. È bellissima. Però certo, l'Inter, come ricorda Conte, e ha ragione, perché l'Inter ha uno spartito. Poi che lo dica lui è come vantarsi, no? Però è vero, no? Chiunque giochi deve seguire il suo allenatore, ma dice anche che ha un grande organico. Ecco, questo forse dovrebbe dirlo ancora di più, certo. Perché ha davvero un grande organico. Certo, colpisce la profondità dell'Inter. Devi, vai. Sì, è chiaro. Però voglio aspettare il 5 ottobre, perché ancora può succedere qualcosa. No, oggi mi sembra... Non voglio dire che l'Inter sia la favorita, però ho il sospetto che è chiaro che la Juve ha vinto così tanti campionati e ha così tanti giocatori bravi che va messa lì davanti per un diritto acquisito, giustamente acquisito, legittimamente acquisito. Chiaro. Però la profondità della rosa dell'Inter è incredibile. Quindi adesso vediamo come si arriva al 5 ottobre. Il fatto che abbia cambiato 7 giocatori non è un dettaglio, perché non è che ha cambiato 7 giocatori perché quelli prima non funzionassero. Che abbiamo 7 giocatori perché ha questa profondità di rosa. Sì. Ma hai fatto impazzire l'altro giorno quando lo sentivamo Conte, hai fatto quel ragionamento per cui sta lavorando su se stesso e gli piace a questo punto segnare tanti gol, magari prenderne, gli interessa il viaggio e non soltanto la meta. È Kerouac Kerouac. Kerouac barra Moccia, e però ripeto, è apprezzabile. Voglio sentire anche Massimo cosa ne pensa, perché comunque io sono convinto che Conte stia facendo un tentativo su se stesso di comunicazione, che comunque è sostanza, cioè quello di essere più pacato, più morbido, più in linea, questa cosa va riconosciuta, no? E poi chi ci creda fino in fondo che la sconfitta è bella, ecco, non ci credo neanche per un minuto, ma neanche però, per un secondo. Comunque, però è comunque apprezzabile, perché è il tentativo di dare un'immagine di se stesso, che poi quindi forma e sostanza coincidono, diversa rispetto al passato. Evidentemente ha capito che alcune sue uscite potevano mettere in difficoltà tutto l'ambiente, sì. Quindi è sostanza, io lo tradurrei in punti, Pier, perché secondo me la gestione dei momenti difficili, che non riguardano le partite, che non riguardano i rigori dati non dati, che riguardano altre cose all'interno dello spogliatoio e dentro la società, fanno punti, e qui la Juventus è la migliore, sì. Perciò secondo me Conte e Marotta e tutti i dirigenti dell'Inter forse sono convinti, però da quello che è successo l'anno scorso non mi sembra. Allora si devono convincere che quando capiterà, perché capita a tutti, a tutte le squadre, a tutte le società, qualche piccolo problema tra il giocatore che non si comporta bene, tra quello che fa tardi, tra la storia della moglie che mette su Twitter o qualcosa che non va bene, è lì fa la differenza il comportamento della società, e la differenza si significa qualche punto in più all'anno, non c'è dubbio, e la Juventus è la migliore in questo. Ma secondo te, Pier, ma secondo te Conte, al di là di questo ragionamento, Conte oggi sta pensando più ai 9 gol fatti o ai 3-2-5 subiti? No, a quelli subiti. Ecco. Antonio è troppo intelligente. Cioè, lui lo sa che la squadra che vince prende meno gol alla fine dell'anno. E quindi quello è un problema che deve risolvere. Ma è una questione di uomini, secondo me. Sì. Cioè, se metti insieme tre, diciamo così, tra virgolette, panchinari, non va bene. Ne devi mettere uno, massimo due, ma il titolare inamovibile ci vuole sempre. Sei d'accordo, Pier? Sono d'accordissimo, e sono d'accordo anche sul discorso della società. La forza della Juve, secondo me, è la capacità di gestione, che poi possiamo definire abitudine, possiamo definire personalità, possiamo definire metodo, quello che vuoi. E da questo punto di vista la Juve sicuramente ha qualcosa in più. Io però la rosa dell'Inter in questo momento la vedo molto competitiva. No, non la vedo vicina, la vedo alla pari la rosa dell'Inter in questo momento. Non la vedo più dietro, devo essere molto onesto. Ma non per Benevento, No, no, ma chiaro. Anche la partita con la Fiorentina, che per me è stata una partita che l'Inter giocava abbastanza male e la Fiorentina molto bene, però poi alla fine succede... Senti, la vince l'Inter, la porta, non lo so, voglio aspettare il 5 ottobre. Mi sembra che il gap tecnico forse non c'è più. Invece, per può quanto un gap di società, sì, questo sì. Sì, la società è l'organizzazione vince i campionati, non ci convincono gli americani. Dobbiamo essere onesti, ci può essere anche un gap al contrario. Non perché Pirlo non sia bravo, Pirlo, nessuno di noi sa che cos'è, sappiamo che è stato uno dei più grandi calciatori degli ultimi 20 anni, 30 anni del mondo, di un'intelligenza purissima, e chiaramente c'è un punto interrogativo sulla sua carriera da allenatore. Mi fa orrore sentire le critiche dopo Roma-Juve, perché cioè, a parte che se vorrei capire quali colpa avrebbe, e poi vorrei anche capire che cosa ci sia di male nel pareggiare una partita olimpica contro la Roma, è chiaro che dovrà essere valutato nel lungo periodo, però insomma Conte da questo punto di vista sicuramente è un allenatore più strutturato, più pronto, quindi secondo me ci sono tanti pro e contro, senza dimenticare le altre. Ma Roma ha giocato una partita confusa, la Juventus. Facciamo così, parliamone tra un istante. Massimo, rimani con noi. Ciao ragazzi, da Juventino, ho visto l'Atalanta ieri sera, quest'anno fa veramente paura, devo dire la verità. Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Gomez da pallone d'oro, titolare nell'Argentina, incredibile, un giocatore fortissimo. Eh beh, vedi Massimo, tutti gli ascoltatori, molti ascoltatori sono colpiti dall'Atalanta, ma come siamo colpiti noi? Non so se bisogna aspettare 20 giornate prima di dire per cosa possono lottare. Chiaro che la Lazio mi sembra che si sia persa nei corridoi dello stadio di Bergamo in quella famosa partita dopo il lockdown, non si è più ritrovata, non è più uscita da quel labirinto. Però se dell'Inter colpisce la profondità, a me dell'Atalanta colpisce la consapevolezza, perché non vacilla mai. Anche quando subisce gol, anche quando va sotto, ha sempre la stessa faccia ed è una faccia giusta. È verissimo, poi la sfrontatezza di giocare uno contro uno senza problemi anche nella metà campo propria. Se fossi un presidente però con qualche euro da spendere, io comprerei Malinovskyi. Cioè, è un giocatore che secondo me può fare la differenza anche nelle grandi squadre, perché spesso è difficile capire. Non te lo vendo. Spesso è difficile capire quando un giocatore è fortissimo nelle squadre medio piccole o medio grandi, se può fare il titolare e può essere decisivo in una grandissima squadra, no? Giocare per arrivare quinto non è come giocare per vincere lo scudetto. Io credo che quello lì è un ragazzo straordinario, perché sa fare tutto ed è cattivo, cioè è uno decisivo in ogni cosa che fa. E spero che l'Atalanta arrivi fino in fondo, perché Gasperini e tutta Bergamo se lo meriterebbe. Io sono anche molto curioso di vedere Miranchuk. D'altra parte Malinovskyi è uno dei pupilli di Pierluigi. Ma di tutti. Il mio pupillo è Ilicic, nel senso che poi per me il giocatore, adesso giustamente dopo la partita di ieri del Papu, il Papu è la coscienza critica, la memoria storica di questa squadra, è un giocatore incredibile, è il leader assoluto. Per me Ilicic è stato il vero grande spariglio, premesso che questa è una squadra forte a tutti i livelli, è forte, è profonda, si parla poco di Gosens, che è un giocatore incredibile, è una squadra che è migliorata in tutte le parti, che ha un buon portiere, poi si è fatto male, ma insomma comunque che ha una qualità diffusa che secondo me è enorme, che ha due attaccanti, due prime punte che possono tranquillamente, non c'è nessun'altra squadra secondo me in Italia che ha due prime punte così, che possono fare una rotazione tranquillissima come quella che fa l'Atalanta, quindi mi sono perso, ma vi voglio bene a tutti. e quindi insomma, per il mio, diciamo, no, su Ilicic, ti sei perso come la Lazio, è il loro grande spariglio di questa squadra, e penso che rispetto all'anno scorso, se l'Atalanta si focalizza un po' di più, cioè potrebbe avere un vantaggio. Un anno fa comunque ha avuto un inizio di stagione abbastanza complicato, ha avuto una partenza molto lenta in Champions League che ha costretto a una rincorsa. È come se avesse preso man mano consapevolezza della propria forza. Adesso è una squadra che, secondo me, quella consapevolezza ce l'ha. E l'hai visto da queste prime due partite, perché a Torino dopo 10 minuti era sotto 1-0, ma non è successo niente. Cioè, zero. Nessun'altra squadra in Italia si butta con a quella testa così subito, no? Poi magari non vincerà il campionato. Però questa vertigine, questa... velocità, c'era solo Atalanta. Ma sta facendo un percorso, come piace molto dire a Conte. D'altra parte, la Lazio, dicevamo, Massimo, si è un po' persa, forse. Adesso c'è Lazio-Inter dietro l'angolo, una partita che dirà molte cose, che però a questo punto per la Lazio diventa particolarmente delicata. Sì, però tatticamente può essere la partita giusta, perché avrà spazio, e quando è così la Lazio fa male. Poi chiaramente l'Inter ha capacità di far gol, e quindi potremmo vedere un'altra partita con tanti gol. Io torno un attimo sull'Atalanta, perché mai come per questa squadra è straordinariamente importante il lavoro dell'allenatore, perché è vero che i giocatori dell'Atalanta sono bravissimi, però quanti farebbero i titolari in Juventus e Inter? Secondo me fa fatica, no? Tranne Malinovskyi, secondo me poi il resto, insomma, non è così chiaro che prenderebbero il posto dei titolari della Juve. Però fanno una grande squadra, perché c'è un allenatore che tira fuori il meglio da tutti quanti all'Atalanta. Quindi credo che Gasperini sia il vero fuori classe di questo miracolo Atalanta. È una squadra di sistema. Beh, un giocatore che secondo me farebbe titolare. Ma è chiaro, è bravo. Anche la società ha una capacità di prendere giocatori incredibili, capacità di fare mercato bene anche in uscita, nel senso che loro quando vendono dei giocatori hanno venduto dei giocatori in questi anni, innanzitutto non hanno mai smantellato, cioè hanno sempre venduto qualcuno e avevano già il sostituto, cioè questa è la grandezza della programmazione. Sulla Lazio io credo che, al di là del fatto che poi ieri ha avuto occasioni, insomma, cioè non è che incontrerà sempre l'Atalanta, io non penso che la Lazio sia in crisi, io penso che la Lazio ci sia un tema vero di profondità della rosa, perché quest'anno arriva la Champions ed è quello un po' il punto debole della Lazio, no? Il fatto che ha 14-15 giocatori e poi si abbassa un po' il livello, e da questo punto di vista secondo me si deve fare qualcosa di più, però poi io sono abbastanza convinto adesso, cioè Lazio-Inter non so come finirà, che poi la Lazio le partite contro le squadre medie le vincerà, perché secondo me ieri c'è stato la vertigine di una squadra che in questo momento è quasi ingiocabile, ma la Lazio secondo me ha una dimensione che rimane di altissimo livello. Rimane comunque, si tratta di intendersi sugli obiettivi, sono d'accordo anch'io sul fatto che, insomma, a parte che in questo campionato credo che vedremo diverse partite che finiscono tanto a poco, perché c'è una grande, mi sembra che sia una profonda differenza tra le prime 5-6 e le altre, però la Lazio si tratta di intendersi sugli obiettivi, non credo che potrà ripetere la stagione dell'anno scorso, può però le prime 5-6 forse sono più vicine, le prime 5-6 sono più vicine secondo me, sì, cioè secondo me vai Massimo. No, le prime due sono vicine, Juve e Inter sono vicine, perché poi c'è da sperare nella continuità, no? E quindi speriamo che l'Atalanta riesca ad essere continua, perché la Lazio l'anno scorso ha dimostrato che la continuità è stato quello che gli è mancata, perché tutti pensavamo che con la ripresa del campionato la Lazio potesse davvero arrivare fino in fondo, invece non è arrivata, l'Inter non è arrivata, lascia stare poi il punto perché la Juve ha mollato, no? Però era un campionato vinto 3 partite dalla fine. Ecco, speriamo che quest'anno... Occhio al Napoli, Massimo, occhio al Napoli però, perché a me intriga molto il Napoli. Certo, però devono essere continue, questo è il punto, no? Perché Juve e Inter secondo me hanno un organico che riusciranno ad arrivare fino in fondo, me lo auguro, così vedremo un campionato. No, Juve e Inter sono sicuramente avanti a tutte, però io credo che Napoli, Atalanta e Lazio sono in quel gruppo lì, e secondo me vedremo. E poi ci sono Milan e Roma, che forse sono un gradino sotto, dai. Però ecco, cioè io penso che fra le prime sette, non perché io sia romanticamente legato alle sette sorelle, che è un concetto di inizio anni 2000 o fine anni 90, ma perché penso che in generale ci sia stata crescita. Il Napoli secondo me è cresciuto, il Milan è cresciuto, la Roma probabilmente no, e infatti forse in questo momento è la più fragile delle sette, ma comunque è sempre in quel gruppo lì e l'ha dimostrato in qualche modo anche domenica. E la Juve secondo me sono 2-3 anni che ha una serie di situazioni tecniche da dover sistemare, dall'alto di una base che è solidissima, di alcuni giocatori che hanno un livello superiore e di una società che è fortissima, però sicuramente dall'estate scorsa secondo me sul piano del mercato non tutto è andato per il verso giusto. No, è vero, e questa è l'ultima cosa che volevo chiedere a Massimo Mauro, dicevi nessuno dell'Atalanta probabilmente sarebbe titolare della Juventus, magari uno sì, si chiama Gossens, tanto che da quella parte lì mi sembra che la Juventus qualche problema ce l'abbia, e poi parleremo di mercato con Gianluca Di Marzio dopo la borsa. Beh, però anche Zapata, scusa, tu con Ronaldo no? Io avrei preso Zapata. Io avrei preso Zapata, sì. Oppure anche Gosens. No, ma sono tutti bravi, bisogna solo rischiare e decidere chi è da giocare per vincere lo scudetto. E questo non è facile, è la cosa che più difficile che devono fare i direttori sportivi, gli osservatori, quelli che se ne intendono, è capire che cosa mettere di queste squadre in una grande squadra. Insomma, ci sono stati tanti giocatori che sono arrivati con... No, pagati tanti soldi e poi non sono stati capaci di giocare per vincere lo scudetto. Ecco, questo io credo che sia un bene, e la Juve a mio avviso deve trovare i sostituti di Bonucci e Chiellini. Sì, sono d'accordo, intanto che mi domando, Massimo, è questo che volevo chiederti, se ha un senso oggi prendere Chiesa spendendo solide formule creative, però una 50 di milioni. Guarda, non è mai male prendere uno come Chiesa, perché tra l'altro è presente e molto futuro, perché è giovane, beato lui, no? Però, ripeto, secondo me i difensori sono la cosa più importante nel presente e nel futuro della Juve. Il presente è garantito, no? Però sono vecchietti, quindi sì, bisogna... Giorgio, sì. Se mi sente, c'è la figlia che va con mio figlio all'asilo, quindi quando mi vedrà mi darà un cazzotto in testa, però è così, è vecchietto. Ciao Max, grazie, è sempre ciao, un piacere. Ragazzi, ciao davvero Massimo. Borsa, poi come detto mercato, c'è Gianluca Di Marzio, Pier, stai lì. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Ma sono un grande stimatore di Eriksen e amo proprio il ruolo del trequartista, solo che purtroppo non lo vedo proprio in sintonia. Ha sempre la stessa espressione e onestamente non trasmette nulla. Quindi o si sveglia o Conte prova a cambiargli il ruolo provandolo come regista, come mi piacerebbe vederlo, o se no onestamente in quel centrocampo di Cannibali non penso abbia senso. Genta, gioca il Milan oggi, no, non so se lo sa, no, fate con calma, no, ma niente, alla fine. Sì, gioca il Milan oggi, domani ne parliamo, ma magari non saprei cosa. Mentre le come... vigilie saranno sempre un po' le più mosche del, cioè più facile parlare di qualcosa che è successo. Poi in certi casi si parla anche di quello che sta per ma succedere. Sì, è chiaro, però le vigilie a me non appassionano mai tantissimo. Senti, ma tu sei mai stato al Gallia, l'Hotel Gallia? Sono stato al Gallia, però insomma diciamo che io al Gallia quando vado mi saluta, qualcuno mi conosce, invece chi è proprio padrone di casa, cioè chi c'ha proprio la suite presidenziale, quello non sono io. Non sei tu. Gianluca no. Di Marzio, buongiorno. Ciao a tutti, ciao Carlo, ciao Pier, ciao. Nemmeno io, o meglio, ce l'avrei nel momento in cui mia moglie mi lascerà fuori di casa perché tornerò sempre più tardi di se calciomercato. Magari, cerco così, di farmi riservarmi una suite al Gallia. Manca poco. Tanto che hai deciso di aprire un hotel tutto tuo, Grand Hotel Calciomercato, è il titolo del tuo libro. Cosa racconti? Ma, abbiamo fatto una serie di assist, ragazzi, livelli clamorosi. Abbiamo appena finito di presentarlo, tra l'altro, e c'erano grandi personaggi, Paratici, Ausilio, Cairo, insomma, tanti esponenti del mondo del calcio, e quindi ovviamente sono arrivate poi anche le notizie, tipo d'Albert Arren è arrivata in diretta mentre stavamo presentando il libro, e si sa che non possa aprire adesso un nuovo slot per Alonso all'Inter, ma a prescindere da questo, nel libro ci sono retroscena, aneddoti, storie, le cose più originali, più particolari, più sorprendenti, più simpatiche. Raccontamene una, dai. Prima linea. Ma una per esempio su Vidal, visto che Vidal è arrivato in Italia adesso, per esempio c'è Pantaleo Corvino che lo stava prendendo per la Fiorentina, no? Già tutto fatto, già preso. La Fiorentina però il giorno prima di firmare la Lazio la Fiorentina di Prandelli vince a Roma con la Lazio 1-0, ma giocando con un modulo diverso rispetto al solito, quindi Prandelli a fine partita dice a Corvino: ma sai che quel Vidal, sai che non me ne faccio niente perché col centrocampo a 2 dove lo metto a 3? E Corvino dice: ma come dove lo metto? Mattina viene a casa mia per firmare. E quindi alla fine Vidal il giorno dopo va veramente a casa di Corvino col suo procuratore, gli offrono sto caffè e Corvino gli dice: ma caro Arturo, io ti devo dire la verità, perché sono bravo, ti ha anche detto la verità, ieri abbiamo vinto giocando con un modulo diverso e non ti posso più prendere. Vidal quindi alla fine è tornato, cioè non è andato alla Fiorentina, e gli mandò una maglia del Bayern Monaco quando andò al Bayern Monaco con scritto: a quel C puntini puntini del direttore che non mi volle alla Fiorentina, Pantaleo Corvino. C'era ancora a casa quella maglia rossa fiammante del Bayern Monaco. Sai come le chiama Pierluigi Pardo? Sliding Doors, giusto Pier? Esatto, ce ne sono tante. Beh, anche, nel libro penso che anche Milinkovic Savic c'è me l'ha raccontato pure, tutti e due l'hanno raccontato quello. Allora ti devo chiamare per la prossima edizione, così mi racconti qualche aneddoto. Ogni tanto mi raccontano qualcosa, tu sei invece la Bibbia, quindi da questo punto di vista. Grazie, insomma. Ma no, non è che lo devo dire io, cioè hai proprio creato un genere, questa è la verità, hai creato un genere negli ultimi anni, che c'era, perché poi non è che uno si crea le cose dal nulla, il calciomercato, tanto un eco. Sì, no, tutto a posto, ti sento miracolosamente e incredibilmente bene. Vabbè, devi stare calmo. Vabbè, sento più eco, ma non importa. No, dico che chiaramente il calciomercato ha sempre avuto una sua, no, un suo appeal, però insomma è diventato quasi un genere letterario adesso. Sì, Gianluca ha fatto tanto per questo. Sì. Da dove nasce la tua passione per il mercato, Gianluca? Toglimi questa curiosità, poi ti chiedo un paio di cose invece di attualità. Carlo, un po' da mio padre, c'è la passione tanto per il calcio, ovviamente, a mio padre, però nell'ultima fase della sua, diciamo, carriera sul campo, lui dopo aver fatto allenatore inizia a fare il direttore sportivo, l'ha fatto a Cosenza, a Venezia, con Zamparini, con Marotta, ed era la fase in cui io crescevo, quindi lui stava smettendo di stare sul campo, ma io avevo 14, 15 anni, 16 anni, e quindi iniziavo anche a capire di più quello che lui faceva, e giravo con lui, quindi ho cominciato a girare con lui, appunto gli hotel, i box, ma entrando dentro la trattativa, cioè entrando nel box, mentre lui da direttore sportivo chiudeva l'acquisto per il Cosenza di Lucarelli, per esempio, no? E allora da lì mi è venuta proprio la passione per tutti questi meccanismi, e poi ovviamente devo ringraziare Sky per avermi dato l'opportunità di seguirla fin da subito, fin dal 2004 quando sono arrivato. No, ma materia comunque assolutamente interessante, tanto che ci sono dei momenti in cui intriga più il mercato del calcio giocato. Mettici anche il fantacalcio. Era la copertina questa frase, era la copertina questa frase. Ah, vedi, non lo so, giuro che non lo sapevo, non ho ancora visto il libro materialmente. Invece... Ma questo è il vostro parere, poi ovviamente. Fatto, mio caro, ma sarà fatto. Senti, invece, Chiesa-Juve fatta, ne parlavamo prima con Massimo Mauro? No, fatta no, perché la Juventus deve vendere prima Lugani, Decilio, almeno Lugani e Decilio, perché tutta la scossa la vedo dura che possa andare via. Quindi sai, prima di dire, io ho imparato che prima di dire fatta, deve essere fatta davvero, che sennò poi dopo mi ritrovo sotto casa davvero ingiustamente, tipo si era piantina arrabbiati. Quindi lo vogliono fare, c'è l'accordo col giocatore, ma la Juventus deve prima cedere, e avrebbe voluto inserire in questa operazione Lugani e Decilio con la Fiorentina. La Fiorentina ha detto no, preferiva De Miral, la Juve De Miral non lo dà, e quindi c'è un po' questo meccanismo che va completato entro lunedì, vedremo se sarà. Non manca tantissimo tempo, cosa vuoi sapere Pierluigi? Ma voglio sapere tutto. Allora, che fa l'Inter da qui alla fine, che fa la Roma da qui alla fine, che fa la Lazio da qui alla fine, dimmi di tutto, hai cominciato a fare. La Lazio credo a meno che la sconfitta di ieri non abbia variato determinate dinamiche, ma hanno già fatto fatica a tesserare i giocatori che avevano preso. Vedi Fares, che tuttora ancora non è ufficiale, ma si allenava 10 giorni, Hurt e Andreas Pereira, quindi non credo che la Lazio riesca a fare altre entrate proprio per motivi di indice, il famoso indice di liquidità che è stato inserito dalla Lega, che ti permette o meno di poter tesserare dei giocatori. La Roma sicuramente fa il difensore e penso alla fine possa riuscire a riportare Smalling e Borja Mayoral come dice Dzeko, come giocatore in più offensivo, e l'Inter, appunto, dicevo prima, D'Albert va al Rennes, e quindi Darmian entra, perché Darmian è già fatta da gennaio, che Darmian arriva dal Parma, e vedremo se Nainggolan andrà al Cagliari, che è l'altra grande operazione che si può chiudere, ma penso di sì entro lunedì, e se ci sarà spazio. Oggi Ausilio in platea ha detto no, però sono quei nomi strategici per un prestito di Alonso, visto che ha rotto con Lampard, e quindi ci potrebbe essere questa opportunità di prenderlo a ottime condizioni. Napoli riesce Milik, appunto. Milik più che altro sta lì? Strato, perché il Tottenham ha preso Vinicius, che paradossalmente è stato il giocatore del Napoli senza mai mettere la maglia del Napoli, se non credo in qualche allenamento, in qualche amichevole a Di Maro. Poi è andato al Benfica, prima a Monaco, poi al Benfica, e il Benfica lo ha ceduto in prestito al Tottenham con diritto di riscatto, quindi Milik a Tottenham non si fa. E Milik può essere quell'occasione da lunedì alle 4, da lunedì alle 5, e chi ha bisogno dell'attaccante, sempre che lui poi abbia voglia di andare, Milik può essere davvero il tormentone dell'ultimo giorno. Di Laurenti soprattutto. Grazie Gianluca. Ciao Gianluca, saluto anche te Pier, perché poi mi butto su tennis e basket NBA. Quindi l'hai vista stanotte? Ma secondo te? Certo che l'ho vista. Secondo te io? No, non l'hai vista. No, mi sono addormentato prima, no, però sai tutto, perché l'hai vista registrata, come fanno tutti quegli umani normali. Esatto. Ciao amico mio, a domani. Ciao. Traffico, torniamo. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Tutti convocati. Just can't get it to fall. James with his ninth rebound, pushing the ball. Bounce pass inside. Davis again, the slam. Good look from Dwight Howard. Well, as my junior college coach, he had an offense called Holy. James gets inside, goes reverse, left-handed. Lessened their intensity, and they've eased their way into a win as James with another bucket. Potete soltanto immaginare forse l'invidia che provo per Simone Sandri, che è uno dei 30 giornalisti di tutto il mondo che sono presenti alla finale. Sbaglio, Simone? No, è così, ed è veramente questo surreale 2020. Consideriamo che nel 2019 i giornalisti presenti erano 1.500, per cui pensiamo come sono cambiate le cose in questo 2020. Senti, ieri parlavamo della credibilità dei bookmaker di Vegas, mi sembra che abbiano già ragione, 116-98, ma addirittura vittoria dei Lakers più larga di questo già larghissimo punteggio. Sì, assolutamente, la partita è iniziata nel segno degli Heat, che hanno fatto 7 minuti praticamente perfetti, sono arrivati in vantaggio in doppia cifra, poi i Lakers hanno incominciato a trovare il tiro da 3. Se i Lakers tirano da 3 come hanno fatto nel primo tempo sono assolutamente imbattibili. Ovviamente hanno poi dominato al rimbalzo, hanno dominato in transizione, James ha fatto quello che voleva, Davis ha fatto quello che voleva, e dulcis in fundo per gli Heat ci sono stati anche gli infortuni di Adebayo, sì. Dragic e Butler, cioè le tre superstar. Così non si può, così ovviamente non c'è nessuna possibilità di competere. Adesso bisogna vedere cosa succede nel resto della serie, perché Butler alla fine ha stretto i denti, però Adebayo ha giocato 21 minuti, Dragic 15, e bisogna vedere le loro condizioni come saranno. Dicevamo, la Lakers squadra del destino, gara 1 ha dimostrato che sembra proprio che il titolo sia già stato assegnato. Hai la sensazione appunto che sia già indirizzata? Tutta la vita, neanche indirizzata, io dico proprio assegnato, secondo me. Addirittura. Forse posso... perché bisogna vedere veramente cosa succede, perché si gioca ogni due giorni e bisogna vedere se recupera Adebayo, soprattutto col problema alla spalla che è un po' riacutizzarsi di un problema vecchio, lo stesso Dragic. Ovviamente se dovesse anche solo uno di questi due non dovesse giocare è quasi impossibile per Miami competere. È già difficile così perché i Lakers sono superiori, ma se dovesse mancare uno di questi tre elementi qua non credo ci sia nessuna possibilità. Vabbè, se deve essere così che sia presto, perché io muoio di sonno, cioè le occhiaie che arrivano al pavimento. Ciao Simone, ci sentiamo dopo gara 2. Ciao, un abbraccio a Simone Sandri da Orlando. Invece da qua Vincenzo Martucci. Ciao Vincenzo. Ciao, come va? Molto bene, tu? Un po' dispiaciuto che il Covid ci ha impedito di andare a Roland Garros, sì. Come dispiace di vederlo da casa come tanti altri, peraltro. Anche perché gli italiani stanno facendo uscire il sole in una Parigi piovosa, Proprio per questo, cioè quattro uomini italiani al terzo turno non si vedevano dal 58 e possono diventare 5 se Berrettini, come da pronostico, batte Harris, quindi io ho scritto un libro, come sai, Rinascimento del tennis italiano, ma più azzeccato di così come titolo non poteva essere. Sì, può diventare la storia, contiamo che vada avanti. Su chi tra questi 5, mettiamoci anche Berrettini, su chi scommetteresti un euro per il prosieguo del torneo? Non ti dico per la finale, per la vittoria. Berrettini c'è il tabellone migliore sicuramente, da tutte le credenziali per andare avanti. Più avanti ancora un turno, ancora possibile, poi potrebbe avere Carreño Busta, che sì è un giocatore forte, però è un giocatore solido da quale sai cosa aspettarti. Sulla strada poi di quel Djokovic che a Roma gli è mancato in semifinale, ma che se non avesse incontrato un pochino di una giornata di pause contro Ruud avrebbe potuto trovare in semifinale, ecco. Sinner? Sinner ha qualità, però io rimango perplesso su Sinner sulla terra rossa. Forse sono io che sono un po' così, che vado, mi sembra ancora non ancora pronto sulla terra rossa. Se si giocasse sul cemento di New York sì, su una superficie veloce sì, sulla terra lo vedo ancora un po' lontano, magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi. Senti, può essere il maltempo, quindi il campo pesante e la palla pesante, le condizioni meteo possono essere un ostacolo per Nadal? Secondo me no, sicuramente non lo avvantaggiano, non gli danno quell'arma in più nel top spin, la sua grande caratteristica, questi giri di palla che fanno schizzare la palla altissima e renderla ancora più difficile, però almeno finora, nei primi due turni che ha giocato, è vero che non ha affrontato avversari fortissimi, non mi sembra proprio, anche perché Nadal, secondo me, è il giocatore negli anni che si è migliorato maggiormente. Il Nadal di 3 anni fa non era in grado di fare né il servizio né il rovescio di adesso. Invece, a casa Serena Williams, c'è chi parla di maledizione del 24esimo slam, io ci credo il giusto alle scaramanzie, però infortunio che insomma il tassametro corre, non è più giovanissima, le occasioni non penso di vincere quantomeno un altro torneo dello slam, non credo possano essere ancora infinite. Ma io guarda, la sorpresa grossa l'ho avuto quando lei si è iscritta a Roland Garros, io pensavo che non lo giocasse, obiettivamente la superficie per lei più ostica, è ostica, lo è sempre stato, perché le rende tutto più difficile appunto per i problemi fisici di cui si parli, per quelli tecnici a lei piace risolvere in fretta tutto dal servizio, dalla risposta con due colpi. Quindi già vederla giocare mi aveva sorpreso, aveva qualche problemino fisico, ha trovato la scusa del tallone d'Achille, è sfortunata Serena perché obiettivamente ha fatto 4 finali, li ha persi tutte quasi da favorita e poteva essere già oltre il record dei 24 slam di Margaret Court e sarebbe giusto così, lei a 23, perché obiettivamente Margaret Court ne ha vinti molti in Australia quando in Australia non giocava nessuno, è stato un po' sfortunato. Obiettivamente la maledizione, se vogliamo, è legata a quella partita pazzesca con Roberta Vinci a US Open del 2015. Se lei non perde quella partita, secondo me adesso è già a quota 27 del top. Se, un'ultima cosa sul rinascimento del tennis italiano, fino adesso fantastici 4 che sono passati di Berrettini abbiamo parlato, chi ti ha sorpreso di più? Forse Cecchinato che è resuscitato dopo la semifinale del 2018, dopo il 2018 non ha più giocato, praticamente era solo crisi. Sì. E invece finalmente l'abbiamo rivisto tranquillo, sereno, anche ieri ha perso un set ma subito ha recuperato in 4 set, veramente sembra rigenerato, evidentemente gli ha fatto bene questo figlio che gli è arrivato. Questione mentale comunque, Vincenzo. Sì, certo, sì, sicuramente. Credo lì questione molto, di te. Molto mentale, sì, molto mentale. E il suo gemello, se vogliamo, Travaglia, anche lui è un giocatore che è venuto fuori tardi, che ci fa pensare che insomma che c'è un... Non è perché parliamo di rinascimento, perché proprio è un gruppo, un grosso gruppo di giocatori di età diverse, di estrazioni diverse, di maestri diversi, che tutti insieme si esprimono al meglio. Grazie Vincenzo, a prestissimo. Arrivederci. Un abbraccio Vincenzo Martucci e chiudiamo qui con naturalmente i ringraziamenti a Gianmarco Ferronato in regia, a Lorenzo Nespoli in redazione e con la convocazione di tutti quanti domani alle 2. Ciao. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.